essere. Ora attenzione, canale 10, cambio. Ora. E buonasera. E allora, un superstite è rimasto. E allora Gianni, leva un po' l'eco però. Non ne ho di eco. E allora, mi sembra un po' cupo. Che radio stai usando, Gianni? Una radio nuova questa qua. Una radio nuova? È nuova, per modo di dire, l'ho comprata a seconda mano, ma è una nuova. Un capo. Ho capito, adesso aspetta, ho aumentato il volume, dai, però avevo radio accesa con la musica e quant'altro. E allora, come va Gianni? Diciamo discretamente, dai, si va avanti. E tu? In questi giorni si respira, dai, col maestrale si sono abbassate le temperature. Io niente, oggi e domani sono di riposo. Le ferie ce l'ho dal 23 agosto in poi, niente, in questo periodo già te l'avevo detto, sempre incasinato, eccetera, e quindi poco tempo. Qualche giorno fa sono entrato, ho provato a chiamare, non mi ha risposto nessuno, poi sulle frequenze in alto ho trovato Claudio Di Muro, se mi sono trattenuto una mezz'ora con lui in banda laterale. Niente, poi qua stamattina ho acceso, ho chiamato, non mi ha risposto nessuno. Adesso ce l'avevo ancora acceso e ho riconosciuto la tua voce. Sì, non c'è più nessuno, l'estate è un casino, se vado già al mare, la sera vado a passeggiare, a prendersi gelato, capito? L'estate è sempre così, abbandonare un po' quindi che c'è il freddo in inverno. No, io l'accendo ogni giorno, anche perché gli apparecchi vengono a scaldare. Perché se no poi i condensatori se ne vanno in quel paese, io adesso ce li ho tutti accesi da apparecchi per dire, perché per farli scaldare un po', perché se non li usi tu li rovini. Già il gara si stava dando problemi frequenzimetro, si accendevano solo tre cifre, poi l'ho fatto caricare e si è ripreso, capito? Basta che si scarica un po', succedono queste cose. E io sono solo soletto in questi giorni, dalla 26 mia moglie e i miei figli sono partiti a Roma perché abbiamo un ospite dall'Australia e lo hanno portato a vedere un po' Roma. Io non ci sono potuto andare, ci sarei potuto andare per 3 giorni, però ho detto andate voi, ho detto, e me ne sono rimasto qua a Sassari solo soletto, almeno mi rilasso un pochettino. Davvero, adesso tua figlia ha finito là, l'ospitalità là in Australia, così è. Sì, esatto, e adesso abbiamo ospitato, diciamo, la sorella australiana è venuta ed è partita, è rimasta 20 giorni e se n'è riandata, l'abbiamo portata in giro in Sardegna. Adesso è venuto il fratello australiano e parte il 13 di agosto, anche lui sta un 20-25 giorni mi sa, e poi parte, capito? Niente, così il viaggio di ritorno mia figlia l'ha fatto in compagnia, capito? E allora per ricambiare ha invitato insomma qualche componente della famiglia e lo stiamo portando un po' in giro, dai. E quindi quello vi impegna, certo. E vabbè, là. E adesso deve arrivare un'amica da Torino, anche a casa, e quindi sono impegnato anche io, per portarla in giro e cose. E vabbè, comunque, già fa piacere, dai, sono esperienze buone che devono provare i ragazzi, sono cose belle. Sì, esatto. Io sto rientrando, ero dall'ottico a farmi prescrivere un paio di occhiali per lettura da vicino, perché siccome ho differenza tra un occhio e l'altro, quindi non posso prendere quelli che vendono già pronti, capito? E allora me li devo far prescrivere e fortunatamente ho trovato un ottico che gli ho detto voglio spendere come gli occhiali che compri già pronti, magari un pochettino di più perché me li fate voi, visto che hanno una lente diversa dall'altra, ho detto e mi vengono a costare 82 euro, me li preparano tra 5-6 giorni. Che cazzo, quelli che vedono che sei 5 euro l'uno. Ma si sfasciano subito quelli che per i cinesi e tutto. Anche quelli che per i farmacia, pensavo che i farmacia fossero più buoni, invece sono più giù di là. Infatti, no, io già ho ancora la prescrizione, ne ho un paio belli, sempre prescritti dall'oculista, però praticamente ingrandiscono parecchio da vicino, no? Se devi leggere, se devi fare un lavoretto anche di elettronica, capito? Ingrandiscono molto, però quando poi vai a vedere senza togliere l'occhiale non ci vedi un cazzo. Invece ne avevo un paio precedenti che mi permettevano anche di vedere da lontano, capito? Senza dover togliere l'occhiale spesso, capito? E allora ho preso la vecchia prescrizione, ho detto li voglio come questi vecchi che avevo, però ho detto una montatura leggera, e così me li ha fatti, mi ha fatto il centraggio, non so cosa, mi ha fatto guardare, eccetera, l'ottico, e praticamente tra una settimana circa, dai, sono pronti. Io l'unico paio che ho trovato buoni sono quelli con la montatura in metallo, vanno benissimo. Li ho presi dai cinesi lo stesso, l'ottico era già preso dall'ottico, però vanno molto bene, ce l'ho un bel po' di tempo, invece gli altri si rompono subito, invece la steppa, tutto dove incassa la vite, e si spaccano lì. Adesso io ero ieri dall'ottico perché c'ho un paio di rima, e praticamente la vite aveva mollato, ho provato a stringerla e invece praticamente gira vuoto, e quindi sono andato dall'ottico, l'ho tolta completamente, sono andato dall'ottico e ho detto se per cortesia mi potrà raggiungere questa vite, cioè queste vite sono particolari, bisogna ordinarle perché sono viti col gommino, perché il gommino mi fa la spessore e poi incassano, capito? Se no malerà sempre, io le posso mettere una vite, però non è quella originale, una vite che ma a me non mi interessa, detto. L'interessante è che possa mettere gli occhiali, cioè, sì, però le malerà sempre la stecca, non sarà mai dura come dovrebbe essere. E infatti ce l'ho un po' a conto suo, mi dispiace perché sono belli, sono a specchio, sono dei miei occhiali, va. Ho capito, anche io ne ho due paia di Ray-Ban, sono belli come occhiali perché sono con le lenti lo stesso, quelle diciamo per la protezione dei raggi ultravioletti. Le avevo presi, allora un paio le avevo presi a Roma, le avevo pagate intorno ai 150 euro perché erano in offerta un paio di anni fa, di quelli classici a goccia, capito? Poi invece ne ho un altro paio che sono più scuri, neri, sempre Ray-Ban, un paio diciamo le ho in macchina, così quando esco ce li ho sempre in macchina, e l'altro paio li tengo a casa e a volte che esco a piedi, capito, ce li ho a casa così non li prendo dalla macchina. E anche io ho fatto così, un paio me li ho lasciati in macchina, però sono molto scuri quelli che c'ho in macchina, appunto servono per il raggio solare, sono scuri, se li metti magari la sera non vedi bene, è troppo scuro come occhiale, invece i Ray-Ban sono sia leggeri come occhiali da portare, e poi le lenti sono chiare, capisci? Sono chiare, si vede bene, e però nello stesso tempo sono chiare, che invece questi qua che ci sono come macchina sono scuri come lenti proprio. Sì, esatto, infatti anche io quelli più scuri li ho lasciati in macchina perché diciamo la maggior parte del sole lo prendi alla guida, capito? Quindi io li voglio proprio lì scuri in maniera tale che ti riposa l'occhio e non te lo diciamo a fatica, non ti fa stringere col sole, capito? Sono con le lenti polarizzate, eccetera. Poi ne ho trovato un altro paio da poco, belli, sono della Police, lo stesso, lenti polarizzate, quelli però sono più chiari, proprio di quelli leggeri, hanno le lenti un po' verdine, capito? C'ho anche quel paio lì, a volte li metto quando esco in bicicletta, eccetera, uso quelli lì. Anche io ce li ho pulissimi, sì, sono di quelli avvolgenti, sempre a specchio, avvolgenti, celesti, sono bellissimi. Esatto, io li uso in bicicletta, quelli lì, quando esco, non ti abbaglia il sole, capito? Allo stesso stesso tempo ci vedi molto bene, nonostante si sembra la lente molto scura, invece vedi benissimo dall'interno verso l'esterno, capito? E quindi ho detto, quelli li lascio, infatti ce li ho vicino al caschetto, quando esco in bici che mi metto il casco con gli occhiali, sono tranquillo con quelli lì. Niente, poi in questi giorni, in questo periodo proprio niente, in radio, in frequenza non sta entrando quasi nessuno. Poi via WhatsApp ogni tanto sento Luca che mi manda qualche video, eccetera, Luca Flipper, però di altri niente, ho sentito solo a te. Adesso, oggi è l'altra volta che ci eravamo sentiti, Claudio di Muros, però poi nessun altro. Ho visto che c'è, ma anche nelle altre frequenze, essendo estate la gente pensa a uscire, andare al mare, a farsi le ferie, quindi abbandona un pochettino la radio, dai. Poi secondo me verso settembre già vedrai che già entreranno anche altri. Sì, ma infatti, vai. La radio si preoccupa perché stavo parlando da molto lontano. Diciamo che come segnale è sempre buono il tuo, qua mi arrivi fondo scala già. Il microfono diciamo è un po' tipo effetto citofonico, capito? Però cupo, non di quelli squillanti, capito? Non è proprio, mentre io ero abituato a sentirti con la voce tua bella chiara e squillante, capito? Mi sono subito accorto che stavi usando qualcos'altro. Ecco. Sì, questo qui è tipico di questi apparecchi, è proprio il tipo di radio. Comunque ieri ho collegato il Brasile. Sì, c'era propagazione avantieri verso il nord Europa. Io ho collegato Germania, Norvegia, quei posti lì, però era va e vieni, capito? Sentivi segnali forti e poi mentre parlavi non li sentivi più, cioè magari loro mi sentivano e io non sentivo loro, capito? Quindi poi alla fine cercando ho trovato Claudio Di Muros che stava facendo collegamenti di X, perché lui c'ha quel QRZ scritto lì eccetera, quindi gli manda poi cartoline, non so come funziona questa roba, insomma ci vuole anche tempo per fare quelle cose, a volte sembra che non basti mai il tempo già. Poi a me legarmi a queste cose non, a me mi piace essere libero senza legarmi associazioni, cose, io per dire su internet tanto, no? E mi hanno chiesto in ginocchio praticamente di entrare a far parte di quest'app dove ci sono tante cose, e alla fine mi ha convinto questa tipa, dai ti prego, questo che l'altro ti ho sentito cantando, mi piace, questo è il capitano sarebbe, dai, quella che organizza tutto. E sono entrato per questo qua, però ci sono giochi da fare, devi raccogliere monete, devi fare questo, devi fare l'altro, a me mi piace solo cantare, non mi piace fare altre cose. E diciamo che un po' mi sta legando questa cosa, capito? A una certa ora si fanno i giochi, si fanno le battaglie, è bellino perché è bellino, però non ho più voglia di fare queste cose, Claudio, credimi, mi piace cantare perché mi rilassa, però fare tutte queste cose, avere tutti questi impegni, devi fare i compiti praticamente, devi votare quello, devi, insomma, è tutta la prassi. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, mi è sembrato qualcuno sotto la tua voce come hai chiuso la portante. Forse la propagazione allora. Allora, ci siamo salvati solo noi, siamo su questi, sì, claro. È vero, poco e niente sul 10 c'è ultimamente. E io qualche volta di mattina così attacco, provo a fare la chiamata, colpi di portante, eccetera, nulla. Invece prima sentivi sempre qualcuno, presto, sentivi Natalino, non l'ho più sentito Natalino. Ma a me mi manda solo buongiorno e buonanotte e basta, poi e adesso su WhatsApp e poi non l'ho più sentito manco io. Sì, ma c'è una scatola girata, perché si sta battagliando con questa antenna. Alla fine mi sono rotto la scatola anche io, quando dico la verità. Ho capito. Sì, so che aveva avuto qualche problema, gli aveva spostato l'antenna, eccetera, e insomma. Anche lui, giustamente, poi alla fine si stanca di tutta questa battaglia e non lo so, forse anche per quello un po' scazzato per la situazione, magari entra poco per quello. Sì, ma me l'ha detto, sto per battagliando, che non ce la fa più a battagliare con questo qua. Poi, diciamo che quei piccoli lì c'erano una mentalità retrograda, poi sono tutti ignoranti, non ragionano, hanno sempre ragione loro, parlano sempre col paraocchi da qua. Sicuramente ha trovato qualche persona un po' antiquata che magari ha una, diciamo, contrarietà per queste cose, antenne, radio, eccetera, non ne capiscono niente, stanno a rompere le balle. Purtroppo a lui gli sono capitate di queste persone, per cui non ci possiamo far niente. Mi spiace per lui. Ma infatti, ma sai, Carlo, che attacco il gas, così lo facciamo andare un po'. Già sono qua, già. Carlo. Adesso è un'altra voce. Adesso sono io. Così va benissimo. Vabbè, è tutto abituarsi, perché ogni radio ha la sua particolarità, capito? Non è che sono bene tutte, però, io uso sempre questo perché mi piace questo, c'è poco da fare. Il Radio 50 è radio, uso sempre il Galaxy Blu, ce ne ho tante, una addirittura il Luis l'ho messo sopra al mobile perché lo volevo vendere, perché ce l'ho in più. E tanto tutte queste radio, cosa ne fai, cazzo? Esatto, io adesso ne ho due, sto usando quello CTR, quelle 9009, l'ultimo che ho preso, l'altro me l'aveva aggiustato Albino, ce l'ho in macchina ma non è collegato, capito? E prima c'era caldo, poi non avevo tempo per sistemare un'antenna e niente, o rivado con la base magnetica alla quale avevo cambiato il gommino nuovo perché si era rotto, l'avevo trovato su internet, su Amazon per pochi euro e mi è arrivato dopo 2 o 3 giorni, gli ho messo il gommino nuovo e c'ho la base è nuova di zecca, diciamo. E devo fissare praticamente il fissaggio della radio e non so se mettere o di quel nastro biadesivo, se lo regge, dentro il cruscotto, oppure mettere 2 vettine di quelle autofilettanti, lo fisso così la staffa, capito, della radio, e poi così la lascio dentro il cassetto e chiude, e ho preso le misure, chiude bene tutto quanto. Dipende se lo metti in basso o in alto. Lo devo attaccare in alto. No, allora il biadesivo non regge, Carlo, per quanto sia buono non regge, perché col calore ce ne scende, già provato. Non lo volevo buccare, ma qui ho messo 2 vitine autofilettate, tutto male che vada, li rimetti le vitine, quando tu lo chiudi li rimetti le vitine e sei a posto. Non è che si veda nulla, capito? E non è quello il problema, anche se ci sono 2 buchini, per dire un domani che lo voglio togliere, magari neanche si vedono, tanto è tutto nero dentro, figurati, non è che non si vede niente. E anch'io allora farò così, mi devo trovare 2 vitine belle di quelle cromate, se le trovo nere, se no già le metto color acciaio, non mi importa, capito? Così la fisso bene la staffa e poi la radio rimane bella stabile, capito? Ah, metti le nere, guardo io se ce li ho 2 nere, certo ne ho 1000 di quelle vitini, ce l'ho proprio originali, quelle che si usano per mettere le staffe, perché a volte mi arrivava la roba, le bustine non le usavo perché lo mettevo dentro casa, quindi non lo fissavo, quindi in casa io ce li ho tutti fissati col biadesivo, però sono messi in basso, non in alto, capito? Quindi diciamo, la pressione che fa l'apparecchio col suo peso lo attacca bene. Ho capito, sì. Io devo guardare lo stesso giù in garage, perché ho proprio il tavolo ho due tavoli, in uno ci ho messo tutte le apparecchiature elettroniche, alimentatori, tessere, eccetera, e poi ci sono i cassettini e là dovrei trovare le cose, le viti, dai. Se non le trovo ti chiedo la cortesia se le hai tu due, e così almeno vedo di sistemarla quella radio. Dai, io guardo, dovrei averle, Carlo, dovrei averle, perché tutto in mezzo alla barata che ho, microfoni, e la giumoca di cose. Mi è arrivato un messaggio della Whirlpool, siccome avevo la lavatrice che praticamente mia moglie l'attaccava, la trovava attaccata alla ringhiera del terrazzino, ballava, e ho detto cosa cavolo sarà successo, era fuori garanzia, allora ho chiamato l'assistenza, no, che ce l'ha l'Adu, quello di Predanieta, e mi ha detto guardi, se facciamo noi l'intervento le costa dai 120-160 secondo cosa deve cambiare, se è il cestello le consiglio di cambiarlo. Ho detto guarda, il cestello non credo perché gira bene, è che quando va in centrifuga balla come non mai, e potrebbero essere gli ammortizzatori. Allora mi hanno consigliato si riattivi la garanzia per un anno con la Whirlpool, fa tutto telefonicamente, e praticamente mi hanno fatto spendere 100 euro per la riattivazione della garanzia, dopodiché ho chiamato loro e con quella garanzia ho pagato solo 20 euro, capito? E mi dura un anno, in più l'intervento che hanno fatto è garantito, e hanno cambiato i due ammortizzatori che erano partiti praticamente, me li ha fatti vedere, avevano perso tutto l'olio, capito? E quindi adesso se si rompono entro i due anni me li ricambiano gratuitamente perché sono in garanzia. Ehi Carlo, se me l'avessi detto prima ti avrei dato un consiglio io, su internet vendono diciamo dei tacchetti che si mettono sotto la lavatrice per non muoversi. Io ho risolto così, anche a me faceva così, se andava da sola, si metteva a camminare da sola la lavatrice quando si centrifugava. Ne ho messo quei tacchetti sotto, non l'ha più fatto. Anche io glieli ho messi, ma tacchetti e non tacchetti si muoveva. Ho trovato dei tacchetti proprio tipo ventosa, belli, no? Niente, se sulla lavatrice poggiavi, che ne so, il detersivo, trovavi tutto in terra, sbatteva contro il mobile, insomma un casino. Adesso come gli ha cambiato gli ammortizzatori è diventata come nuova, silenziosa, la centrifuga la puoi usare anche al massimo, ed erano proprio quelli, e ho visto come li hanno cambiati, però capito, praticamente capovolgono la lavatrice, sono fissati alla carrozzeria, no, sul fondo ci sono due bulloncini, li sganci, poi c'hanno un blocco in alto, capito, e penso come pezzi di ricambio costino anche poco, se dovesse capitare di nuovo una cosa del genere, così sono in grado di farmelo da solo, capito, perché ho osservato come ha lavorato il tecnico. Certo. Io la Whirlpool l'ho cambiato, ho speso 200 euro però pur di non comprarla nuova, perché quella aveva le cestelle in acciaio, ha detto che adesso tutti gli ingranaggi stanno facendo in plastica, cioè se lei la cambia aggiunge 100 euro la prende nuova, però questa se li cambia all'interno poi li dura altri 20 anni, perché ha il cestello in acciaio e così non le fanno più, e gli ingranaggi non sono in plastica, sono tutti quanti in cose, in metallo. Quelli in plastica si rompono i denti e se ne vanno a farsi bere le dita, sempre così succede. Quella lì cosa fare? Ho preso e non ne ho comprato nuovo, l'ho lasciato quella lì e ce l'ho già da quando me l'ha fatta 10 anni. Pensa che la prima lavatrice che abbiamo avuto, presa nel 93, ci è durata 20 anni giusti, capito? 20 anni, era una Candy. L'unico danno che aveva fatto, diciamo, è la guarnizione del cestello, che l'avevo cambiata io. Poi ha sempre funzionato bene, poi a un certo punto si è spento tutto, è andata in corso dopo 20 anni, allora a quel punto avevo preso questa Whirlpool, e adesso ce l'abbiamo questa 6 anni, però funziona bene, capito? Il tecnico mi ha detto che i pezzi ci sono ancora, capito? E quindi si può aggiustare tranquillamente. Infatti mi ha detto se quanto dice, gli ammortizzatori sono durati 6 anni, magari tra 6 anni ci vogliono di nuovo gli ammortizzatori, magari non li trova più, magari se ha tempo se li prenda, però capito, secondo che cosa succede, poi la devi buttare e ti rimangono questi 2 ammortizzatori e mai si veda, capito, quando sarà da cambiare si cambia. E infatti Carlo, una volta la aggiusti poi non conviene più aggiustarla. L'altro giorno sono andato a accenderla e non mi accendeva, ho detto che cavolo è successo. Ho preso e ho cambiato il riduttore che c'aveva, ed era il riduttore, deve essere che è andato in corto, e ho messo il riduttore nuovo e è partito già subito. Detto, mi stavo già disperando, che la lavatrice mi viene a cambiare. Sì. Stavo spolverando qua dove c'è la radio, c'era un dito di polvere sulla radio, insomma sulle altre cose che ho, perché non avevo più tempo, già era tutto fermo qua, anche io la stavo accendendo poco, però pare che sia tutto a posto, capito? E già fa bene girare un po' la radio, dai. Adesso che stiamo un po' a parlare, e ogni tanto io le accendo, anche ieri le ho accese, ho provato a chiamare, non risponde nessuno e via. Qualcuno mi ascolta, mi ha detto che mi ha ascoltato, però che non risponde perché non le va a entrare su 10. Vabbè, comunque, me l'ha detto per telefono, ha detto non ne andavo di entrare, ha detto vabbè, ora non faccio che devi fare. Però, se mi ha ascoltato potevi dirmi già passa un altro canale. Infatti se non ti va di parlare, magari la chiamata rimane sempre sul 10 e poi te ne faccio in un altro canale, ma io giusto per fare le 4 chiacchiere va bene il 10, capito? Già a me, per me un canale vale l'altro, sono tutti quanti uguali per me, io sono amico di tutti, non ho problemi di questo genere, a me va bene entrare da tutte le parti, poi se c'è qualcuno che non le va faccia come vuole, ognuno è libero di pensarla come vuole, cazzo. Esatto. Una decina di giorni fa lo stesso, acceso di sera, era di pomeriggio intorno alle 7, alle 8 di sera, e ho parlato con Antonio, non lo stavo riconoscendo perché da quando si è trasferito io ero rimasto al segnale che aveva quando era nell'altra casa, diciamo, no? E lì per lì non lo stavo conoscendo, mi sono trattenuto così un quarto d'ora con lui, poi dovevo chiudere perché era ora di cena, capito? Ogni tanto qualcuno sul 10 già si affaccia comunque. Me l'ha detto che si è sposato, Antonio? Sì, me l'ha detto, ci ho chiacchierato, ma ha detto pure che sta facendo un altro lavoro, che sta lavorando con una società che fanno l'allestimento, insomma, per spettacoli, cose del genere, fanno gli impianti, insomma, già lo sai come funziona. Ho detto, l'importante è lavorare, poi, capito, se uno si ferma senza lavoro non si sta bene. Sì, glielo obbligo. Sì, si sta lavorando. E sono il terzo matrimonio di Arturo. Sì, so che ha il bambino piccolo, che me l'aveva detto lui, ogni tanto me lo faceva sentire anche alla radio, infatti gli ho chiesto se stava crescendo, insomma, già mi sono trattenuto un pochettino, non più di tanto, però diciamo ci siamo scambiati 4 chiacchiere, infatti lui dice c'è poca gente, ho detto sarà anche l'estate, la gente va al mare, rientri tardi e esci di più anche dopo cena col caldo che c'era, poi a stare con la radio accesa non era la cosa migliore. Sì, a Gabriele l'hanno battezzato lo stesso giorno del matrimonio, hanno fatto battesimo e matrimonio tutti e uno insieme. Ha fatto bene, così ha fatto una festa unica. E infatti, e che festa, si è cantato, c'era un palco grande dove si cantava, era bello, c'era un bel impianto anche. Insomma, è stato un bel matrimonio. Antonio anche lui è canterino e già gli piace cantare, quindi sicuramente avrà organizzato tutto lui lì. Sì, tutto l'impianto era il suo, il mixer, le casse, c'è anche una bella attrezzatura, Antonio faceva anche le serate e cose, quindi ha una bella attrezzatura. tutto mix, case grandi, parco, perché l'ha fatto in un oratorio, nella sala di un oratorio dove si fanno spettacoli, capito? Quindi c'era il palco per cantare, c'era tutto, non mancava niente. Ho capito. Sì, sì, lo so che Antonio ha quella passione, perché ne avevamo parlato più di una volta. E infatti una volta mi aveva anche invitato ad andare in un circolo dove si cantava, insomma, si beveva. Dice, vieni così ci senti, beviamo 4 birre, eccetera. Ho detto anche 5. Invece poi quel giorno che c'era questo coso, avevo il turno di lavoro e non ci sono potuto andare, perché io non è sempre che riesco a avere la serata libera, capito? E soprattutto adesso d'estate ci stiamo crepando al lavoro, voli tutti pieni, capito? Non abbiamo pause, sempre da come inizi a lavorare te ne vai, finisci il turno e a malapena riesci a fare un quarto d'ora di pausa. Ti posso capire, questo qui è il periodo boom, diciamo così, adesso ancora niente, adesso è l'agosto, adesso è ancora bici. Agosto, dopo il 15 è il periodo peggiore, dal 15 agosto sino al 10 settembre c'è il controesodo, adesso i voli stanno arrivando strapieni, capito? Poi partiranno tutti dopo Ferragosto e quindi ci sarà lo stesso il contrario, i voli in partenza tutti pieni. E io lo stesso per le ferie stavo cercando di vedere qualche località dove andare, ho detto andare fuori. Barcellona, andate e ritorno, 187 euro a persona, prezzi folli, quando prima ci andavi con 19 euro, capito? Però se prenoti adesso per agosto è così. L'unica tratta buona che costava, diciamo, andate e ritorno 82 euro era come si chiama? Budapest in Ungheria, che è bellina da visitare la città, però lì bastano 2-3 giorni, capito? Invece ti tocca andare per 4 giorni, però magari qualcosa riesci a fare o vedere, dai, in 4 giorni magari fai con calma e vedi meglio. Il problema è che non so se mia moglie ne ha voglia di andarci o meno, capito? Perché per me ci andremo solo io e mia moglie, e i nostri figli ormai già sono grandi, già ne hanno girato anche loro, e così magari riusciamo a contenere anche un pochettino i costi, dai, andando in due. Ma tu non c'hai gli sconti per viaggiare? No, non ne abbiamo noi sconti, ce li abbiamo solo lì in aeroporto, se acquisti al bar oppure al negozio, ma le compagnie non ce ne fanno, capito? Prima ce li avevano solo i dipendenti all'Italia, ma ormai non esiste più all'Italia, è tutto cambiato. Le compagnie niente, non ci fanno sconti, noi gli sconti, te l'ho detto, li abbiamo sui negozi lì, che ne so, se devi comprare profumi, liquori, queste cose così, abbiamo anche il 30-40% di sconto su certi articoli, però sulle tratte, sui biglietti niente. Invece io c'ho un amico che lavora all'aeroporto di Roma e addirittura c'ha gli sconti sui viaggi, ma non solo sui viaggi, anche l'albergo c'ha gli sconti, capito? Paga meno anche l'albergo. E lui ha cominciato così, mi scaricava gli aerei, con il ricatto sotto l'aereo caricava i bagagli. Ha cominciato così, adesso sta a fare il tuo lavoro praticamente, però sta nella sala dove ci sono tutti i monitor, eccetera, eccetera. Prima stava lì a controllare i pacchi, controllare i bagagli, eccetera, adesso sta proprio nella sala dove ci sono i monitor che vede tutta la malata. E lui c'ha gli sconti. Però appartiene agli aeroporti di Roma. Sì, perché gli aeroporti di Roma magari come società è una società più grossa, quindi magari può darsi che abbiano delle scontistiche anche sulle tratte, su alberghi, eccetera. Ma dalla Sardegna non te ne fa nessuno, perché le tratte non convengono, capito? Sono molto più dispendiose, diciamo, per le compagnie, e quindi non te ne fanno di sconti neanche se li ammazzi. Lui, questo amico mio, c'ha la passione di fotografare sott'acqua, e abbiamo avuto dei filmati dove sopra lo squalo giù e lui sopra, praticamente a pochi metri di distanza, un coraggio allucinante, accarezza le tartarughe, i pesci, ha dato da mangiare alla murena, ha fatto un filmato, ha pagato, gliel'hanno fatto questo filmato mentre lui faceva queste cose, capito? Ha pagato per... e poi lui fa anche le fotografie subacquee, eccetera, eccetera. Sia lui che la moglie hanno la stessa passione, quindi, capito, non hanno figli, si trovano proprio bene, vanno, fanno questi viaggi allucinanti, sono andati al Mar Rosso, sono andati un sacco di cose. Ho capito, io lo stesso, già mi piace viaggiare, però diciamo ci vuole anche tempo. Prima, quando facevo altri lavori, riuscivo a farne di più di viaggi, invece con questo lavoro insomma mi lega troppo, perché hai turni, lavori sabato, domenica, feste, non conosci insomma soste, non è un lavoro come per esempio in banca, lavori dal lunedì al venerdì, magari qualche volta il sabato mattina, però c'hai sempre la domenica, c'hai, che ne so, le vacanze di Pasqua e di Natale, qualche ponte. Invece noi lavoriamo sempre, noi lavoriamo, abbiamo le ferie che ce le danno massimo a 10 giorni d'estate, 20 giorni d'inverno se li vogliamo, ma d'inverno non è libera mia moglie e quindi non riusciamo mai ad andare insieme, capito? Tipo come adesso, loro sono andati 4 giorni a Roma e io volendo potevo andarci 3 giorni, ma sarei dovuto partire dopo, e ho detto ma chi me lo fa fare, ho detto andate voi, ho detto già a Roma già l'ho vista tante volte in effetti, e sono a casa in completo relax, sono in pantaloncini, capito, in infradito. Ieri notte me ne sono andato a letto alle 2 di notte, mi stavo guardando una serie TV spapparacchiato sul divano, capito, contento perché non dovevo andare a lavorare oggi e neanche domani ci devo andare, rientro dopodomani di pomeriggio, quindi sono in pieno relax. Ti stai assaporando la libertà. Guarda, io viaggiavo molto prima, quando ero sposato, viaggiavo anche una volta alla settimana, perché prendevamo quei viaggi low cost e andavamo a Pisa, a Verona, siamo andati a Viareggio, siamo andati a Roma, un sacco di posti. Tu pensa che abbiamo pagato anche viaggi 25 centesimi, 30 centesimi, abbiamo messo tutte in pazzo, siamo andati tutti in pazzo, se volevano rubare, potevano rubare tutti, l'abbiamo preso per tutto il pazzo, poi adesso se non viene qualcuno non saranno più i centesimi lì che perdi. E invece sono venuti tutti, siamo andati tutti in Grecia. Ma lo sai quando ci siamo divertiti? Lo immagino. Sì, se prenoti molto tempo prima trovi tutte queste possibilità, insomma, di pagare poco. Avendo tempo così a disposizione sempre già lo puoi fare, tipo uno che è in pensione, che non si deve preoccupare del lavoro, prende, si prenota oggi per, che ne so, per la prima decade di ottobre e magari trovi prezzi stracciati, capito? Invece quando non hai la possibilità sei costretto a farlo all'ultimo momento, il biglietto ti costa molto di più. Vabbè, quello sì. Ma io ti dico una cosa, che una volta ho pagato più di pullman, che ho pagato 20 euro che di aereo, una cosa assurda, per andare a Pisa, abbiamo pagato più di pullman che di aereo. Di aereo mi pare che avevamo pagato 4 euro, una cosa del genere, di pullman 20 euro, infatti un conto. Cioè ci divertivamo bene, lo facevamo tutto in giornata, sembrava una cosa così strana, l'unica cosa è che ti dovevi alzare presto, la mattina, la domenica, anche se lavoravi, se non lavoravi dovevi alzarti presto, però poi ti passavi tutta la giornata diversa, sembrava così strano, in giornata, la mattina si assassa, la sera si dà, poi ti passi tutto il giorno, cioè arrivi la mattina là e ti passi tutto il giorno, poi la sera si di nuovo assassa. È una cosa un po' strana, capito? La vedevo molto strana come cosa, però andavamo lì per dire il primo ristorantino, oppure a volte mangiavamo anche panini, cose del genere, ci arrangiavamo, va. E fermavo, stavamo tutto il giorno girando, tornavamo con piedi gonfi. Siamo andati a vivere i pussi, ho visto diversi pussi, dai. Eh sì, sì, così già è bello. Anche se vai per un giorno, però appunto ti svaghi e ti diverti, anche se ti stanchi, però poi già ci vuole poco a riprendersi. E io viaggi ne ho fatto anche, cioè in Italia, forse ho viaggiato poco in Italia, capito? Ho viaggiato più all'estero io, ma anche viaggi lunghi, io sono stato in Australia, sono stato negli Emirati, tanti anni fa, prima di sposarmi, ho fatto Tunisia, Marocco, Algeria, quando ancora si poteva andare, capito? Sono stato in Grecia, sono stato in Inghilterra, in Scozia, in Spagna avevo fatto il tour dell'Andalusia, siamo andati sino a Gibilterra, capito? Abbiamo visto Cordoba, Valencia, però quei viaggi di 8 giorni, capito? Diciamo che i viaggi li ho fatti soprattutto fuori, in Europa e fuori dall'Europa, sono stato negli Stati Uniti che mi ero dimenticato e insomma già ne ho visto, però prima riuscivo di più a viaggiare, adesso devo aspettare e andarmene in pensione, mi sa già, qualche viaggetto così quando ho le ferie posso organizzare e basta. E vabbè. E quando poi vai non c'è problema, purtroppo il lavoro è così, cosa vuoi fare, ti impegna molto quel tipo di lavoro lì. E vabbè, allora, io non è se lo dico la verità, non sono mai andato, però l'Italia ce l'ho girata, sono stato anche 15 giorni sono stato a Sirmione, tutta quella zona lì, ho fatto Sirmione, Limone, Lago di Garda, siamo andati a Gardaland, per 3 volte sono andato lì, perché mi è piaciuto e ci sono ritornato altre 2 volte. Sì, in Italia diciamo che giravo di più quando avevo mio figlio piccolo, mi ricordo che eravamo andati a Genova, addirittura con la nave, eravamo stati di 3 giorni, perché con la nave eravamo partiti la notte, dormito di là e gli avevamo fatto vedere l'acquario, c'era tutto il porto antico, il faro, poi avevamo fatto il giro con una barca privata, no, che ti portava sino al faro antico di Genova e ti faceva vedere tutte le vecchie imbarcazioni, il porto vecchio, i primi moli, molto interessante. Poi eravamo rimasti un giorno in giro a vedere le chiese a Genova, eccetera, e poi eravamo rientrati, capito? L'unico viaggio in nave, poi tanti anni fa la nave si prendeva anche per andare a cosa, Civitavecchia, per andare a Roma, ma io ti sto parlando di 40 anni fa, poi non ne ho più preso. L'ultima volta che ho preso la nave, diciamo, sarà 18 anni fa, che era piccolo mio figlio, adesso mio figlio ne ha 25, fatti Rugonto, lui era piccolino, solo quello. Poi sì, quando facevo l'altro lavoro viaggiavo, ho viaggiato, diciamo, facevo sempre Alghero-Milano, poi facevo col treno Milano-Novara, da Novara mi spostavo a Trecate dove c'era la mia azienda, e d'inverno facevamo lì una settimana perché facevamo i corsi di aggiornamento per i farmaci, eccetera. Invece poi a primavera, verso maggio, la facevano a Coso, a Riccione, quindi facevo Alghero-Bologna, poi da Bologna andavo alla stazione, la stazione facevo Bologna, Rimini, Cattolica e Riccione, e stavamo lì all'Hotel Mediterraneo sempre, una settimana, la mattina eravamo sempre impegnati con i corsi di aggiornamento e anche 2 o 3 ore di pomeriggio, e poi però la serata ce l'avevamo libera, quindi uscivamo con i colleghi, stavamo in giro, Riccione era bello, capito? Viale Ceccarini, la via della, insomma, la via della moda, della mondanità, e a maggio lì era già estate, capito? Quindi era pieno di gente il fine settimana. Invece poi ad estate andavamo alla Lamezia Terme, all'aeroporto da Roma, facevo Roma Lamezia e poi ci spostavamo, a volte siamo andati anche a Bari con il taxi, avevamo tutto pagato, capito? Già ne ho girato anche d'Italia, ma Napoli, Caserta, tutte quelle zone lì. Poi dal nord sono andato a Bormio, in Trentino, sono andato a Trieste perché mia moglie lì aveva delle zie che adesso sono morte, quindi eravamo andati a trovarle, mi ricordo ci avevano ospitato loro, eravamo rimasti una decina di giorni, avevamo visto il castello di Miramare lì a Trieste, molto bellina come città, ma adesso saranno anni che non faccio un viaggio in Italia, ma almeno penso 20 anni, perché poi tutti gli altri viaggi li ho fatti all'estero. No, io sarò 6 anni che non viaggio più, sono 6 anni, perché prima viaggiavo, ti ripeto, prendevamo tutti questi viaggi che costavano poco, addirittura una volta noi siamo andati con questo viaggio, abbiamo pagato 3 euro e c'era una signora, 150 euro aveva pagato, cavolo, per fare lo stesso viaggio, e già ci siamo guardati in faccia, cavolo, e lui già sa quanto abbiamo pagato, cioè lo so, ma io non ne so fare di queste cose, non mi intendo di internet, ho capito. Un po' di relax ci voleva per me. Adesso mi sto bevendo una birretta, una Heineken, l'altro giorno sono andato a farmi un po' di spesa, per non uscire in questi giorni ho detto non ne ho voglia di uscire, a parte l'ottico dove sono stato stasera, ma sono andato all'ottico e ritornato, poi di uscire non è che ne ho grande voglia. Ma infatti col caldo non è che ci venga, io qualche sera mi sto scendendo a Plattarona a prendermi un po' d'aria, mi porto il cane, lo faccio passeggiare così, poi trovo qualche amico, capito, e ce ne stiamo lì a prendere un po' di aria, l'altro giorno si stava di un bene, guarda c'era questo venticello piacevole e si stava troppo bene, a stasera si poteva stare. E poi sabato me sto scendendo sempre Alghero, però trovare un parcheggio Alghero adesso è come trovare l'albero un pagliaio, la stessa cosa. Sì, parcheggi ne ha pochi. Piazzale della Pace, se ci vai presto trovi qualcosa di libero, ma è proprio a fortuna, se no è tutto a pagamento adesso lì. Se poi vai a cercare nelle vie lì del centro è tutto pieno, la gente si parcheggia e non sposta più la macchina, capito? Io ho molti colleghi di Alghero, addirittura cosa fanno? Lasciano la macchina parcheggiata verso Viale Europa, eccetera, chi ha 2 macchine ne lascia una lì, va a piedi e parte da lì, perché poi se no non trovi parcheggio. Non c'è, però c'è vita, c'è spettacolo, c'è un po' di tutto. Noi siamo stati sino alle 2 sabato, eravamo 2 amici, 2 amiche, siamo andati giù e siamo stati sino alle 2 di mattina, ma c'era sempre gente, sempre pienoni, sempre tutto pieno, da qualsiasi parte andavi c'era spettacolo, karaoke, questo e quell'altro, c'erano di quegli artisti di strada che ballavano break dance, insomma c'era un po' di tutto. Sì, no, quello c'è l'Alghero d'estate, c'è di tutto, soprattutto per i giovani, ma non solo. Già ce n'è di movimento, di vita, di cose da vedere, sempre qualche spettacolo lo fanno sempre, insomma, già è bellina, solo il problema è che è sovrappopolata e molte volte va anche in difficoltà col traffico, con la nettezza urbana, che i camion non ce la fanno a raccoglierla tutta, insomma, perché la popolazione triplica durante l'estate. Comunque dopo la pandemia pian piano già si sta riprendendo un po' tutto il tram tram che c'era prima, dai, ma meglio così. Speriamo di non vederne più certe cose, per carità. Mi sentivo legato in casa, non potevo più, per me guarda, io penso sempre come faranno quelli che stanno in galera, io se sto in casa mi viene l'ansia, mi viene, non mi piace, mi piace uscire, cioè, sono le volte che magari sono stanco, mi piace rilassarmi, però quasi sempre mi piace andare in giro, uscire, fare. E stare in casa proprio boh. E la pandemia, a parte il fatto che io avevo il cane, io uscivo per il cane, però solo quel momento. Eh beh, sì, anzi col cane bene o male potevi uscire e almeno prenderti una boccata d'aria. Senza quello invece noi non avevamo nessun cane e quindi uscivi solo a fare la spesa, ti dovevi sempre compilare il modulo, sto uscendo a tale ora per spesa per la famiglia, eccetera, qua e là, solo una persona, poi mamma mia. Poi per il lavoro era tutto chiuso, non c'erano voli, non c'era niente, ci avevano messo tutti in cassa integrazione e poi pian piano abbiamo riniziato, ma mamma mia che periodaccio, dai, è importante esserne usciti. Ma comunque speriamo che non ne succedano più di cose del genere, secondo me se non fanno più cagate in laboratorio, tanto era roba del genere che avevano fatto fuggire i virus, quei cinesi maledetti. Allora sono loro che hanno fatto casino, non c'è niente da fare. Sì, io c'avevo il cane, però Carlo, credimi che avevo paura a stare in giro perché non sapevo se il virus era nell'aria, se te lo potevano contagiare, se, cioè non sapevi nulla, capito? Era tutto astratto, il fatto del virus, non si sapeva da dove proveniva, come contagiava, come veniva. Poi hanno cominciato a dire, a fare, poi nemmeno lo sapevano, non si è mai saputo cos'era, ci hanno fatto fare i vaccini e chissà poi che cosa tutto c'era dietro. Esatto, dai. Speriamo ci rimangano solo questi brutti ricordi e basta, mamma mia, periodo schifoso. Ed è durato, un paio d'anni siamo stati così, tra restrizioni, vaccini, mascherine, non ne potevamo più. Adesso vedo che la gente esce libera come era una volta, gente che si abbraccia, si toccano le mani, perché anche quei gesti in quei due anni non c'erano più, capito? E trovavi una persona, avevi anche timore a toccargli la mano, a salutarlo, era insomma un periodo difficile, era importante esserne usciti. Io in quel periodo proprio la radio non l'avevo ancora collegata, per cui non so se chi aveva la radio, magari essendo in casa, chissà, già ne avrete passato anche di tempo a fare quattro chiacchiere, no Gianni? Sì, quello sì, però non puoi stare sempre attaccato alla radio, Carlo, quello sì ti faceva compagnia perché non potevi uscire, quindi si discuteva di queste cose appunto, molto spesso. Diciamo che non si è mai saputo se c'era qualcosa dietro, se c'erano interessi, se c'erano un po' tutto, diciamo, astratto è stata la cosa. Non si è mai saputo di certo che cosa sia successo e che cosa c'era dietro, soprattutto se c'erano guadagni da parte di case farmaceutiche, questa gentaglia qua. Infatti, ma importante esserne usciti, dai, speriamo che non se ne parli più di queste cose. L'altro giorno lo stesso sono salito, non sapevo cosa fare, sono salito sul tetto a controllare l'antenna, già sembra tutto a posto, le giunzioni, ho visto che c'è ancora l'isolamento che avevo fatto, già è buono, sembra così. I lavori da noi nel condominio sono sempre tutti bloccati, ci avevano promesso che sarebbero ripresi il 15 di luglio e invece siamo già a fine luglio e non si è visto ancora nessuno. Qualche giorno fa si è visto il caposquadra con una signora che guardavano, parlavano di misure, di ponteggio qua e là eccetera, poi se ne sono andati e non si è visto più nessuno. A questo punto mi auguro che diciamo riprendano non ad agosto, ma che riprendano direttamente a settembre per finire, perché da noi hanno fatto diciamo la metà dei lavori, il 75% della facciata è già fatto, manca la facciata principale, capito, e tre parti di tetto. Poi dovevano farci il fotovoltaico e cambiare l'ascensore e gli infissi. Adesso gli infissi avevano preso le misure e non ce li hanno cambiate. Adesso il 28 l'amministratore ci ha mandato una mail che il 28 alle 4 di sera passeranno per prendere le misure degli infissi, perché la ditta che le aveva prese le misure praticamente si è sganciata dalla società Vitruvius, questa che ci sta facendo i lavori, e quindi si sono dovuti appoggiare a un'altra ditta di serramenti. Però l'amministratore ha detto è una ditta seria, le hanno fatti anche nel nostro palazzo e i serramenti sono buoni, state tranquilli, adesso non ci rimane che aspettare, tanto ormai abbiamo aspettato tanto. Infatti se dovessero riprendere a fare il tetto dovrò scollegare l'antenna almeno per una decina di giorni, devo tirare su il cavo dell'antenna, poi come finiscono lo ributto giù, ricollego lo spinotto e sistemo definitivamente tutto, capito? Però secondo me se ne parla a settembre. E tu sei già fortunato che stava facendo i lavori lì. Non hai sentito la televisione cosa mai? C'è gente che aveva praticamente ristrutturato case e cose, poi gli hanno bloccato i finanziamenti, adesso non sanno come fare, devono pagare tutto. È un casino, capito? C'è gente che addirittura questa signora ha detto noi siamo ospiti da una famiglia perché abbiamo dovuto svuotare tutta la casa che la stiamo rifacendo tutta nuovo, ci hanno ospitato e non possiamo rientrare perché la casa è fatta a metà, hanno tutto sfasciato, tolto le mattonelle, tutto quanto, non possiamo andare a abitare così. E ci hanno bloccato i lavori perché praticamente i finanziamenti sono bloccati e quindi dice adesso ci dobbiamo rimettere noi di tasca, come facciamo? Lo so, addirittura a Milano in alcuni condomini hanno tolto le finestre, poi hanno bloccato i lavori e la gente è rimasta nell'appartamento senza le finestre, quindi in emergenza chi è voluta rimanere ha dovuto mettere il nylon, chiudere, fare una specie di serramento con legno, capito? Ha messo il nylon doppio, siliconato tutto, perché praticamente hanno tolto gli infissi e non hanno messo i nuovi, capito? Perché hanno bloccato i finanziamenti. Gente che ha dovuto prendere appartamenti in affitto, roba da matti, perché non, cioè, il governo che è entrato non doveva bloccare così, cioè il governo che è entrato doveva dire allora il 110 non lo togliamo, rimane per i condomini che sono iniziati e finisce con quei condomini, basta, e poi non se ne fa più. Invece hanno bloccato tutto, le banche hanno chiuso i crediti, capito, e quindi hanno bloccato tutti i lavori. Poi si sono resi conto che avevano fatto una cagata e hanno riaperto i crediti, però sta andando tutto a rilento adesso, capito, perché ci vanno con le molle anche gli impresari, non rischiano, aspettano che ci siano i bonifici, se no non possono pagare gli operai, insomma un sacco di problemi. A noi la consegna dei lavori è a dicembre del 2023, entro il 30 dicembre 2023, quindi ancora abbiamo diversi mesi. E il caposquadra ci ha detto nella riunione di condominio della ditta che loro i lavori dovrebbero portarli a termine massimo in un mese e mezzo da noi, con 10 operai, capito, che lavorano circa 10 ore al giorno, perché fanno 5 ore la mattina e 5 la sera, capito? Sinché dura il bel tempo, e invece 8 ore poi nel periodo autunnale. Adesso che c'è caldo, non mi vorrei nei loro panni stare al sole, sotto il sole a lavorare. E disse no, ho visto che anche vicino a casa stanno continuando, c'è un palazzo della strada nuova che porta verso il monte lì, c'è un palazzo che stanno ristrutturando, hanno quasi terminato, hanno cambiato tutti gli infissi, addirittura i pluviali li hanno messi tutti in alluminio, insomma hanno fatto un bel lavoro, e stanno finendo l'ultima parte della facciata e hanno finito, capito? Hanno tolto tutti i ponteggi dalla prima parte, li hanno piazzati dalla seconda parte e stanno facendo la seconda parte della facciata, però lo stanno terminando. Speriamo bene, dai, infatti anche io non so neanche più cosa pensare, cosa dire da noi. perché siamo almeno, mi sa che erano andati via ad aprile e non si è più visto nessuno da aprile, capito? Abbiamo